chiederti cosa ti manca e vorrei chiederti cosa non ho, ma cosa servirebbe poi io non lo so. Solo che senza motivo, almeno non che fosse mio, devo rifare tutto un viaggio malgrado io. Non abbiamo mai cercato di fermarti né di cambiare i tuoi perché, e tantomeno posso chiederti di restare qui con me. Io che non ho cambiato gli orizzonti e che con la vita spesso faccio i conti, perché ho bisogno di certezze che non so dare a me. In fondo ho chiesto solo di capire, ma se poi passi e non vuoi rimanere, resta soltanto un grande vuoto da riempire. E non riesco più a sentirti adesso, e non riesco a fare i sogni miei, se tu rimani in ogni giorno come vuoi. Ti chiamerei la notte e il giorno, ti cercherei ovunque vai, ma senza dare un senso vero ai giorni miei. Sono vuoti come spiaggia a marzo, che la gente è ancora via, ma dentro sono in pieno inverno e nevica malinconia. Io che non ho cambiato gli orizzonti e che con la vita spesso faccio i conti, perché ho bisogno di certezze e non so dare a me. In fondo ho chiesto solo di capire, ma se poi passi non vuoi rimanere, resta soltanto grande vuoto da riempire. Chiederti cosa mi manca e vorrei chiederti cosa non ho, ma cosa servirebbe poi io non lo so.